9:20. Dimmi Natalie. Piccolino non ne ho più io, ma me li ho venduti. Me li ho venduti tutti gli amplificatori, piccolini e medi, e c'ho solo un amplificatore grosso, boh. Dimmi Natalie. Natalino. Tutto non prendo via Natalie. Qualcuno va riportando, non sbaglio più. troppo forti. Spiegati, ma te cosa è successo? Diciamo, c'è qualche uno che sta facendo la portante, che non sa, si avrebbe fatto un'altra cosa, era stato e sta disturbando sicuramente, a te si disturba e tuo padre dice che ti ascolta male. Ah, hai fatto il brutto di azionista. Propagazione è alta, non è propagazione. Comunque lo coprite di brutto, forse tutta la lista di portanti. È alta, quasi 9,20. Sì, ma non vi fa tenuta tutte e due, lo schiacciate completamente, vi ascolto benissimo, lo copre, capito? E lui ce l'ho ogni tanto, si muove, la tagli un canale, poverità, pari tu, Luca, tu frate tu, qualcosa. La parola è dove chiama, dovrebbe essere Roma di Slavo, del genere, il dialetto è quello lì. Ma, vabbè, Natalino e Gianni non si sono sentiti, no? No, io non sento più, Gianni, Natalino, ci siete? Ma mi stavo dicendo Claudio che stavano cambiando non so cosa, non c'è niente, non c'è cosa. Ah, forse io sono andato già con l'insegnante della scuola. Non quando stanno, sono andati a Osio, non so qua altro, sicuramente per rispettare qualche antenna. Un attimino di bianco che ne mangio un po' per tirare il Eia, sempre io. Girella. Ehi, entrando al Domus. Entrando, ma allora è finto tardi. Cosa? Finto tardi hai. E di cosa? Sto rientrando, del lavoro. Ah, no, una cosa lavoro. Stavi lavorando, stavi. Cosa? Mi senti? Aspetta, sono in zona negativa, aspetta. Cos'è tanto? Detto, se stavi lavorando. No, no, no, ero a zonda, a zonda. Cappa. Quindi tutto di rientro. Che era? Andava. Va bene, già va bene. Zuga! Sì, c'è un tuo collega in giro, tu. Cosa? Cosa? E non t'ho copiato noi questo passaggio. Ah, c'è un tuo collega in giro, molto carrozzella e le bombole. Giro, a quest'ora. Cavolo, mi dovevi fare adesso. Ma se fai lo gioco, ma via le bombole, vedi in giro la moto. Che bombole sono? Grigie. Grigio chiaro. Cava. E in giro a che ora? Allora, questo è notturno. No, no, sarà stato andare a fare qualcosa, magari per i fatti suoi. Chi te la rubare a B, altro che... Ma via Turati sei passato? No, qua... Il 25 aprile. Che capa, era in giro questa moto. Ah, l'ho vista in giro. Papà, cos'era? Scarica o carica? No, un po' di bombole c'era, ma sicuramente erano scarica. Anche stavamo tutte muovendo. Oh, allora deve essere che sicuramente sta facendo qualcosa lui per i fatti suoi. Non credo che stia andando in giro, per la maniera più assoluta. Va. Ok, cazzo, alle 10 non è che uno si mette a consegnare il bombolo, Gaffa, gaffa. Ah, non va, non vicini, no, di notte. Cosa, tu, ti sto perdendo? Detto che non c'escono di notte. Eia, eia. No, comunque, in giro, è già in giro, ma poi infatti giù sicuramente. Ciao, raga, c'è anche Luca, Luca! Come? Ecco, le sto vedendo una pesca. Ancora? Adesso la frutta. Dici così sembra niente. Mi stai facendo venire a casa, raga. Mi stai facendo venire la Puglia, a me piacciono. Soprattutto quando sono cotte bene lì, che hanno quel dolce al punto giusto, sono buone. La Puglia. Papà, a me non mi piace quando la fate nei vecchi, cioè che cruda, no, non manda. Invece quando è cotta come si deve, uiuia. Tu vedi quanti romagni? Cosa tu? Tu vedi quanti romagni? Cava! Sei bello maturo, sì. Papà, non ti piace? Sì, già mi piacciono le pesche, però sono belle mature. Non troppo, però tanto giusto, dai. Se sono, mi fanno una città. Papà, ehi, lì. Papà, per un mese, io mi voglio dare una raccolta, mi piace in giro. Sta tutta buona, questa. Gava, gava. Andava, va buon raga, vi saluto, sono arrivato. Ci sentiamo alle prossime se coincide, dai. Ciao, ciao Daniele, dai, ci sentiamo dopo. Gava, gava, andava la vera. Saluto a tutti, dai, ciao. Ciao Daniele. Ehi, ciao Lucaria. Attacca dopo, 10 minuti, ho mezz'oretta, dai. Mi sa che... Ti attacco a qualcosa lì, dai, capisci a me, così lo facciamo girare. Attacco, già l'hai capito chi? Cosa? Qua c'è, vabbè. Sì, e poi si vedrà. Guarda, ragazza, guarda, non voglio vedere che cosa scoprono, certo, sono cazzi due. Cazzo, vieni, stanno a prendere i pedofili su internet, no, no, no, la madre ha pigliato e ci vanno i figosci, ma stai scherzando. Cambio. Se non mi faccio il modo, le faccio fare due tiri. Ma basso. Ancora? E ora? Ora, Luca, com'è? È matto la radio. Ma è freddo, mi lu. Freddo, il cava. Cava. Sono scaldato. Vediamo un po' cosa dice. Neanche si muove ancora la maladam. Ora. Inserito il torcio, no? Ah, ecco, è vero, adesso pure mi sembra tutto, tutto inserito, e invece è cazzato, guarda, mi ha dato lo spunto, guarda adesso! Ce la sei tu! Come stavo spolverando l'altro giorno, mi sono accorto e l'ho pigiato. Quante antenne stai uscendo? Una ne ho! Aspetta, questo non penso, fai da 5 a 7 come vuoi, che da 5 a 9. Cava, ora. Eppure sta salendo qua. E adesso? Io devo aspettare un po', dai, tutto da questo non penso, non c'è problema. Ehi, dai, adesso questo va, un po' di tempo, fermo. Cos'è che ha detto Pierpa? Pierpa! Cos'è che ha detto? Ma tu l'ha detto, da 5 a 9. E non è che cosa è? Un segnale pallerino, beh. Mi piace, sì. No, che sei nulla, tu. Boh, non lo saccio. Ora, ora. Ehi, ancora deve salire, dai. Ora. Brava. Oh, bianco un secondo, dai. Positivo, positivo, una volta è un suono proprio. Valico, facciamo la gestana, se compriamo. forse per lo sveglio di qualcuno. Te lo ricordi ieri, eh? Ma qua il capo ci ha fatto, più a questo mi è quello. Ma te, il centro lì non sopra, capa! Dai, vabbè, Kudu. Non ci siamo messi, eh? Non siamo messi, eh? Guarda, il mio, non perdere, non invidia ancora il forte Isu. E c'è forte, quello, senza ombra di dubbio, però... Questa è tutta un'altra musica. Poi come questo, quello non ce n'è altro, questo è molto migliore di quello, cambio. E chi te lo di tu, Paro? No, lo dice anche il proprietario che ce l'aveva prima, capa. Sì, sì, domani. Domani, vedrà tutti. Un chilo. Quale 2 chili? Uno, 2 chili. sistemato da niente. Ho già fatto, ma claro, per quella questione. No, non ci sono andato. Non ho avuto tempo. Mi l'ho acceso adesso, intanto già è tardi. Sì, non è per quella signora. È per quelli che c'è lo sciotto che devi stare attento. Già lo saccio. Caro, allora me, tutto a farlo scaldare, 5 minuti la bocio con uno. Si arrende tutto. Vai, come te chiedi. Va bene, vai, io sono qua che faccio qualcosa. Sto controllando la posta elettronica e tu me ne puoi cliccare. Ciao a tutti, buonanotte, riprendi tu. Ciao, buonanotte. A domani. Avanti, Daniele. Ciao qua, ci sentiamo domani, dai. Allora, Anthony. Sì, qua sono. Vabbè, dai, che io vi saluto, sennò qua c'è un casino. Sentiamo domani se coincide, dai. Sì, basta, non ti preoccupare, basta. Adesso sentiamo la vettura, guarda, se coincide. Ciao, Daniel. Ciao, Luca, e salutoni circolari a tutti gli altri che ci sono, dai. Ciao, ciao. Buonasera a tutti, dai! Buonasera! E allora, come sta va? Buonasera! Sì, ancora!

siamo domani, anch'io chiudo tanto, che si nessuno, ciao ciao.